e faccende cotesta, e mappo, e trillo, e spiritato. Io non so dove io sia, e mi serra la porta e scappa via. Che moglie, che figlioli, che sogni, che rimboboli. Ah, vecchiaccio, questa è una furberia. Questo un rigiro per ridersi di me, per strapazzarmi. Me vuoi vedere il film o sincerarmi? Ehi, sorella! Chi è costui? O quel paur, o tu carstiger kerle! Non risponder! Signore, io non intendo! Io parlo italiano! Si parlate cristiano e allora vi intenderò! Dove sta il mio padrone? E che ne so? Venuto a sposar anion che medle der paur Filippo mi fermato a pome trinche e non trofar tu posere il signor. Io non intendo nemmeno una parola. Star briaco. Bravo, così va detto. Mi conosciuto tua fisonomia, venir me codonare lo strio. Oh, giusto, altra voglia. Oh, tu precone, ferbeuta troppo star rauscio. Ci mancava questo in toppo. Piar star buone trinche. Non si incomodi. Tortufla! Non foller. Questoria, questa. Mi foller da bottiglia sulla testa. E non faccia berro. A gute paesan, quando padrone Sandrina per sposata, voler dar buone trinche, voler imbriacare in compagnia, voler ballare e stare in allegria. Come? Il vostro padrone deve sposar Sandrina? Sì, bella piccolina. E si farà oggi la sposalizia? Mi ha